sopra i campi bagnati di primavera, cascali di ragazzi giovani, attoniti indossano il futuro. E c'è chi vanno in braccio all'amore, godendo del sorriso. Della minuta erba, della minuta erba, sdraiati colgono l'amore, i seni bianchi che brillano come smeraldi strappati alla roccia, e seminano il sogno. Sì, il sogno. Che sia per sempre, per sempre. Tornerà, tornerà, sì, tornerà, tornerà, tornerà. Resta il ricordo di amate ondulazioni che infiammano l'aria, e nel tramonto del sole s'accompagnano musiche. Di rossa fiamma, tornerà, tornerà. Tornerà, tornerà, sì, tornerà. Tornerà l'indomani, tornerà l'indomani, come nostalgico presente. Tornerà l'indomani, tornerà l'indomani, come linea di pallido volto e di tanta vergine bellezza rubata. Resterà che una mutevole ebbrezza e di tanta vergine bellezza rubata. Non ci resterà che una mutevole ebbrezza. Sopra i campi bagnati di primavera, restiamo così meravigliati.